centrurilor. Tamborul africano ai nel suonul mister. Il bianco ascoltando comprende che un capo sei tu. Negro ascoltando s'accende danzando di più. Africa, sei vicina al mio cuore. Africa, dolce male d'amore. Al ritmo dei tamburi scende il sole, la carovana muove lenta ma lontana. Africa, misterioso tambora. Africa, cupo e triste tambora. Africa, cupo e triste tambora.